Do il buon pomeriggio ad Annalisa Camilli, giornalista, che questo mercoledì 26 gennaio sarà al Teatro Arena del Sole con Limoni Live, tratto dall'omonimo podcast di Internazionale. Ciao Annalisa, benvenuta ai microfoni di Radio Città Fucico. Buon pomeriggio, bentrovati. Allora Annalisa, appunto dicevamo che questo mercoledì sarai al Teatro Arena del Sole con Limoni Live. In che cosa consisterà questo spettacolo a differenza del podcast? Ah, metteremo in scena dal vivo alcune scene centrali del podcast. Lo spettacolo dura circa 40 minuti e è tutta una riflessione da una parte sulla difficoltà a tornare sui fatti del G8 di Genova, quello che hanno significato per una generazione di attivisti, e allo stesso tempo la necessità di farlo tutti insieme, di riprendere in mano quelle memorie particolari, parziali, e provare a farne qualcosa di altro, provare a superarle, a prepararle, diciamo così, per diventare storia, per diventare eventi storici. E ripercorreremo poi i fatti di quelle giornate del luglio del 2001 che hanno cambiato la vita appunto a tante persone, a tanti e tante. Ti volevo chiedere, Annalisa, perché hai deciso di portare questo racconto proprio a teatro? Che cosa ti dava in più o di diverso la realtà teatrale? Ma è un'idea che ci è venuta per il Festival Internazionale a Ferrara, grazie anche ai teatri dell'Emilia Romagna che hanno voluto, a Ertet che ha voluto mettere in scena Limoni, perché ci sembrava che si prestasse particolare appunto a una sorta di rito collettivo, il fatto di ripercorrere insieme proprio quella memoria, farlo insieme in un teatro, avesse in fondo qualcosa anche di un valore civile, insomma, e poi avesse anche una funzione quasi terapeutica, ecco, rivivere insieme quei momenti, ascoltare insieme dei pezzi di archivio, a rifletterci insieme e poi verranno mostrati appunto, faremo sentire dei pezzi dell'archivio che sono anche nel podcast e poi ci sarà una proiezione fotografica, quindi ci sarà anche un apparato visivo, ecco. C'è stato anche un percorso, diciamo, collaterale con le scuole di Bologna. Ti va di raccontarci che cosa è stato fatto con gli alunni, che tipo di lavoro avete fatto e qual è stata anche l'importanza dietro questo lavoro? Con gli alunni del liceo Righi di Bologna abbiamo cercato di capire che cosa significa occuparsi di questioni che sono storiche, ma in realtà di una storia così recente come il G8 di Genova, ma come tanti altri eventi, per esempio appunto la strage di Bologna nel 1980 o la memoria dei movimenti studenteschi bolognesi del 77. Che cosa significa quando i testimoni sono ancora vivi, no? E quindi qual è il passaggio molto delicato che si deve fare per raccogliere le memorie delle persone che sono ancora vive e che però hanno assistito a un evento che ha decisamente cambiato la storia delle persone che sono state toccate da quell'evento, ma poi la storia del paese, di una città o di un paese, come nel caso dei fatti del G8 di Genova, ma come anche tanti altri casi di eventi storici della storia recente. Quindi con loro ci siamo un po' interrogati su qual è il rapporto tra memoria e storia, tra memorie e storia, e su come appunto provare a riraccontare quanto la memoria faccia già parte di fatto della storia, sia una parte così importante della storia, e quanto sia interessante e importante provare a raccogliere quelle testimonianze di chi appunto ha vissuto in prima persona certi eventi per farne un racconto anche in soggettiva, insomma, no? Per andare a capire come queste memorie hanno appunto avuto un impatto, per esempio, sulla città, sulle città, su quello che viviamo, su alcune questioni che viviamo nell'oggi, anche nella contemporaneità. Quindi insieme con loro abbiamo fatto un percorso, prima insomma di restituzione, un po' di racconto di come è nata l'idea del podcast, di come l'abbiamo realizzato, e poi di ricerca che sarà appunto anche una ricerca di questi studenti, di raccolta, di lavoro sulla memoria di fatti recenti che hanno riguardato la città di Bologna. Perfetto Annalisa, io ti ringrazio e rinnoviamo l'invito per questo mercoledì 26 gennaio al Teatro Arena del Sole con Limoni Live. Grazie ancora Annalisa. Grazie a voi, a presto.